ad alta voce. Alvar Orbacher legge Agostino di Alberto Moravia. Tutti i ragazzi si erano affollati nell'acqua bassa. Il Saru badava ad avvertirli paternamente che la barca era troppo piccola per contenerli tutti, ma si vedeva che faceva per Celia. Come infuriati, i ragazzi si gettarono gridando sulla barca. 20 mani afferrarono i bordi e in un batter d'occhio la barca si trovò riempita di quei corpi gesticolanti. Alcuni si distesero sul fondo, altri si ammonticchiarono a poppa intorno al timone, altri a prua, altri ancora sui sedili. Alcuni infine sedettero sui bordi lasciando penzolare le gambe nell'acqua. La barca era veramente troppo piccola per tanta gente e l'acqua arrivava fin quasi ai bordi. «Allora ci siamo tutti!» disse il Saro piano di buon umore. Ritto in piedi, sciolse la vela e la barca scivolò al largo. I ragazzi salutarono con un applauso questa partenza. Ma Agostino non condivideva il loro buon umore. Spiava un'occasione favorevole per discolparsi e ottenere giustizia dalla calunnia che l'opprimeva. Approfittò di un momento che i ragazzi discutevano tra loro per avvicinarsi al negro che se ne stava tutto solo, inerpicato a prua, e pareva, così nero, quasi una polena di nuovo genere. E stringendogli forte un braccio gli domandò: «Di un po', che cosa sei andato a dire poco fa di me?» Il momento era mal scelto, ma Agostino non aveva potuto prima di allora avvicinare il negro, perché costui, consapevole del suo odio, durante tutto il tempo che erano stati a terra, aveva fatto in modo di star lontano da lui. «Ho detto la verità», disse Holmes senza guardarlo. «E cioè?» Il negro ebbe una frase che spaventò Agostino. «Non mi stringere, io ho detto soltanto la verità. Ma se tu continuerai a metter su Saro contro di me, io andrò a raccontare ogni cosa a tua madre. Sta attento, Pisa!» «Che?» esclamò Agostino intuendo l'abisso che gli si spalancava sotto i piedi. «Cosa dici? Sei pazzo? Io...» Balbettava, incapace di seguire con le parole quello che l'immaginazione ad un tratto, come per un lurido strappo, gli mostrava. Ma non ebbe il tempo di continuare. Sulla barca era scoppiata una grande sghignazzata. «Eccoli lì, tutte e due, uno accanto all'altro!» ripeteva Berto ridendo. «Eccoli lì! Bisognerebbe avere una macchina fotografica e fotografarli insieme, Holmes e Pisa! Restate, cari, restate insieme!» Il viso bruciante di rossore, Agostino si voltò e vide che tutti ridevano. Lo stesso Saro rideva sotto i baffi, gli occhi socchiusi nel fumo del sigaro. Ritraendosi come dal contatto di un rettile, Agostino si staccò dal negro, si prese le ginocchia tra le braccia e guardò il mare con occhi pieni di lacrime. Era ormai il tramonto, rosso e nubiloso all'orizzonte, sopra un mare violetto e percosso di luci vetrine e aguzze. La barca, nel vento che si era levato impetuoso, se ne andava come poteva, con tutti quei ragazzi a bordo che la facevano pericolosamente inclinare sopra un fianco. La barca aveva la prua rivolta al largo e pareva che fosse avviata non già a terra, ma verso certi foschi profili di isole lontane che tra i rossi fiumi del tramonto spuntavano in fondo al mare gonfio, come montagne in fondo a un altipiano. Il Saro, assestato tra le ginocchia il cocomero rubato dai ragazzi, l'aveva spaccato con il suo coltello da marinaio e ne tagliava grandi fette consistenti che distribuiva paternamente alla banda. I ragazzi si passavano le fette e le mangiavano con avidità, mordendovi dentro e cacciandovi le guance, oppure staccandone con le dita grossi pezzi di polpa. Poi, una dopo l'altra, le scorze rosicchiate fino al bianco volarono sopra bordo in mare. Dopo il cocomero fu la volta del fiasco di vino tratto dal saro, con solennità, dal sottopoppa. Il fiasco fece il giro della barca e anche Agostino dovette accettare di inghiottirne un sorso. Era caldo e forte e gli diede subito alla testa. Riposto il fiasco vuoto, il Tortima intonò e tutti accompagnarono con il ritornello una canzonaccia indecente. Fra le strofe i ragazzi incitavano Agostino a cantare anche lui. Tutti si erano accorti della sua cupezza, ma nessuno gli parlava se non per canzonarlo e pungerlo. Agostino ora provava un senso di oppressione e di chiuso dolore che il mare fresco e ventilato e l'incendio magnifico del tramonto sulle acque violette gli rendevano più amaro e insoffribile. Gli pareva sommamente ingiusto che in quel mare, sotto quel cielo, corresse una barca come la loro, così colma di cattiveria, di crudeltà e di perfida corruzione. Quella barca traboccante di ragazzi, in tutto simili a scimmie gesticolanti oscene, con quel saro beato e gonfio al timone, gli pareva, tra il mare e il cielo, una vista triste e incredibile. A momenti si augurava che affondasse, e pensava che sarebbe morto volentieri, tanto si sentiva anche lui infetto di quella impurità e come bacato. Lontane erano le ore del mattino quando aveva veduto per la prima volta la tenda rossa dello stabilimento Vespucci. Lontane e come appartenenti a un'età defunta. Ogni volta che la barca sormontava un'onda più grossa, tutta la banda dava un urlo che lo faceva trasalire. Ogni volta che il negro gli parlava con quella ripugnante e ipocrita umiltà di schiavo, avrebbe voluto non udirlo e si ritraeva di più sulla prua. Si rendeva oscuramente conto di essere entrato, con quella funesta giornata, in un'età di difficoltà e di miserie, ma non riusciva ad immaginare quando ne sarebbe uscito. La barca errò per un pezzo sul mare, giungendo fin quasi al porto e poi tornando indietro. Come approdarono, Agostino corse via senza salutare nessuno, ma poi, a poca distanza, rallentò il passo. Volgendosi indietro, vide lontano, sulla spiaggia rabbuiata, i ragazzi che aiutavano il Saro a tirare a secco la barca. Dopo quel giorno incominciò per Agostino un tempo oscuro e pieno di tormenti. In quel giorno gli erano stati aperti per forza gli occhi, ma quello che aveva appreso era troppo più di quanto potesse sopportare. Più che la novità, l'opprimeva e l'avvelenava la quantità delle cose che era venuto a sapere, la loro massiccia e indigesta importanza. Gli era sembrato, per esempio, che dopo le rivelazioni di quel giorno i suoi rapporti con sua madre avrebbero dovuto chiarirsi e che il malessere, il fastidio, la ripugnanza che, soprattutto negli ultimi tempi, destavano in lui le carezze materne, dopo le rivelazioni del Saro dovessero trovarsi come d'incanto risolti e pacificati in una nuova e serena consapevolezza. Ma non era così. Fastidio, malessere e ripugnanza sussistevano. Soltanto, mentre prima erano stati quelli dell'affetto filiale, attraversato e intorbidato dall'oscura coscienza della femminilità materna, adesso, dopo la mattina passata sotto la tenda del Saro, nascevano da un sentimento di acre e impura curiosità che il persistente rispetto familiare gli rendeva intollerabile. Se prima egli aveva cercato oscuramente di sciogliere quell'affetto da una ripugnanza ingiustificata, ora gli pareva quasi un dovere di separare quella sua nuova e razionale conoscenza dal senso promiscuo e sanguinoso dell'esser lui figlio di quella persona che non voleva considerare che come una donna. Gli pareva che il giorno in cui non avesse visto in sua madre che la bella persona che ci scorgevano il Saro e i ragazzi, ogni infelicità sarebbe scomparsa, e si accaniva a ricercare le occasioni che lo confermassero in questa convinzione, ma con il solo risultato di sostituire la crudeltà all'antica riverenza e la sensualità all'affetto. La madre, come in passato, non si nascondeva in casa dai suoi occhi di cui non avvertiva lo sguardo cambiato, e maternamente impudica pareva ad Agostino che quasi lo provocasse e lo ricercasse. Gli accadeva talvolta di sentirsi chiamare e di trovarla la toletta, discinta, il petto seminudo, oppure di svegliarsi e di vederla chinarsi su di lui per il bacio mattutino, lasciando che la vestaglia si aprisse e il corpo si disegnasse entro la trasparenza della leggera camicia ancora spiegazzata dalla notte. Ella andava e veniva davanti a lui come se lui non ci fosse. Si metteva le calze, se le toglieva, si infilava gli abiti, si profumava, si imbellettava. E tutti questi atti che un tempo erano sembrati ad Agostino affatto naturali, ora, apparendogli significativi e quasi parti visibili di una realtà ben più ampia e pericolosa, gli dividevano l'animo tra la curiosità e la sofferenza. Si ripeteva: «Non è che una donna», con un'indifferenza obiettiva di conoscitore, ma un momento dopo, non sopportando più l'inconsapevolezza materna e la propria attenzione, avrebbe voluto gridarle: «Copriti, lasciami, non farti più vedere, non sono più quello di un tempo». Del resto, la sua speranza di considerare sua madre una donna e niente di più naufragò quasi subito. Ben presto si accorse che, pur essendo diventata donna, ella restava, ai suoi occhi, più che mai madre, e comprese che quel senso di crudele vergogna che per un momento aveva attribuito alla novità dei suoi sentimenti non lo avrebbe più lasciato. Sempre, capì ad un tratto, ella sarebbe rimasta la persona che aveva amato di affetto sgombro e puro. Sempre ella avrebbe mescolato ai suoi gesti più femminili quelli affettuosi che per tanto tempo erano stati soli che egli conoscesse. Sempre, infine, egli non avrebbe potuto separare il nuovo concetto che aveva di lei dal ricordo ferito dell'antica dignità. Egli non metteva in dubbio che tra la madre e il giovane del pattino corressero i rapporti di cui avevano parlato i ragazzi sotto la tenda del Saro, e stupiva oscuramente del cambiamento intervenuto in lui. Un tempo non c'erano stati nel suo animo che gelosia di sua madre e antipatia per il giovane, ambedue poco chiare e come assopite. Ma ora, nello sforzo di restare obiettivo e sereno, avrebbe voluto provare un sentimento di comprensione per il giovane e di indifferenza per sua madre. Soltanto quella comprensione non riusciva ad essere che complicità, e quell'indifferenza indiscrezione. Poche volte ormai gli accadeva di accompagnarli in mare, perché procurava sempre di sfuggire a quegli inviti. Ma tutte quelle volte Agostino si accorgeva di studiare i gesti e le parole del giovane quasi con il desiderio di vederlo oltrepassare i limiti della solita urbana galanteria, e quelli della madre quasi con la speranza di ricevere una conferma ai suoi sospetti. Questi sentimenti gli riuscivano insoffribili perché erano proprio il contrario giusto di quello che avrebbe desiderato. E quasi rimpiangeva la compassione che un tempo avevano destato nel suo animo le goffaggini materne, tanto più umana e affettuosa dell'attuale spietata attenzione. Gli restava da quei giorni passati a combattersi un senso torbido di impurità. Gli pareva di aver barattato l'antica innocenza non con la condizione virile e serena che aveva sperato, bensì con uno stato confuso e ibrido in cui, senza contropartite di alcun genere, alle antiche ripugnanze se ne aggiungevano delle nuove. Che serviva vederci chiaro se questa chiarezza non portava che nuove e più fitte tenebre? Talvolta si domandava come facessero i ragazzi più grandi di lui ad amare la propria madre e al tempo stesso a sapere quello che egli stesso sapeva. e concludeva che questa consapevolezza doveva il loro uccidere a tempo l'affetto filiale, mentre in lui l'una non riusciva a scacciare l'altro e, coesistendo, torbidamente si mescolavano. Come avviene, il luogo dove queste scoperte e questi combattimenti accadevano, la casa, gli era diventata presto insopportabile. Almeno al mare, il sole, la folla dei bagnanti, la presenza di tante altre donne lo distraevano e lo stordivano, ma qui, tra quattro mura, solo con sua madre, gli pareva di essere esposto a tutte le tentazioni, insidiato da tutte le contraddizioni. La madre, che al mare si confondeva con le mille altre nudità della spiaggia, qui appariva unica ed eccessiva. Come su un teatro ristretto, in cui le persone degli attori sembrino più grandi del vero, ogni suo gesto e ogni sua parola avevano uno spicco straordinario. Agostino aveva un senso molto acuto e avventuroso dell'intimità familiare. Durante l'infanzia i corridoi, i ripostigli, le stanze erano state per lui luoghi mutevoli e sconosciuti, dove si potevano fare le più curiose scoperte e vivere le più fantastiche vicende. Ma ora, dopo l'incontro con i ragazzi della tenda rossa, quelle vicende e quelle scoperte erano di tutt'altro genere e tali che non sapeva se più l'attraessero o lo spaventassero. Prima aveva finto agguati, ombre, presenze, voci nei mobili e nelle pareti. Ma ora, più che sulle finzioni della sua esuberanza fanciullesca, la sua fantasia si appuntava sulla nuova realtà di cui gli parevano impregnate le mura, le suppellettili, l'aria stessa della casa. E all'antico innocente fervore, che si calmava a notte con il bacio materno e il sonno fiducioso, si era sostituita all'ardente e vergognosa indiscrezione che proprio a notte ingigantiva e pareva trovare maggiore alimento al suo fuoco impuro. Dovunque in casa gli pareva di spiare i segni, le tracce della presenza di una donna, la sola che gli fosse dato avvicinare, e questa donna era sua madre. Starle accanto gli pareva sorvegliarla, avvicinarsi alla sua porta spiarla e toccare i suoi panni, toccare lei stessa che quei panni aveva indossato e tenuto sul corpo. Di notte, poi, sognava ad occhi aperti gli incubi più angosciosi. Gli sembrava talvolta di essere il bambino di un tempo, pauroso di qualche rumore, di qualche ombra, che ad un tratto si alzava e correva a rifugiarsi presso il letto materno. Ma nel momento stesso che metteva i piedi in terra, pur tra la confusione del sonno, si accorgeva che quella paura nient'altro era che curiosità maliziosamente mascherata, e che quella visita notturna avrebbe presto fatto, una volta che si fosse trovato nelle braccia della madre, rivelare i suoi veri nascosti scopi. Oppure si destava improvvisamente e si domandava se per caso il giovane del pattino non si trovasse addirittura dall'altra parte, nella stanza attigua, insieme con sua madre. Certi rumori gli sembrava che confermassero questo sospetto, altri lo dissipavano. Si rivoltava un pezzo nel letto, inquietamente, e, alla fine, senza saper neppur lui come ci fosse arrivato, si trovava, in camicia, nel corridoio, davanti alla porta della madre, in atto di ascoltare e di spiare. Una volta, persino, non aveva saputo resistere alla tentazione ed era entrato senza bussare, restando, poi, immobile nel mezzo della stanza, in cui, dalla finestra aperta, si diffondeva, indiretto e bianco, il chiarore lunare. Gli occhi sul letto, dove i capelli neri e le lunghe, gonfie forme, avvolte, rivelavano la presenza della donna. «Sei tu, Agostino?» gli aveva domandato la madre, destandosi. Senza dir parola, egli era tornato in fretta nella sua stanza. Thank you.